il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E insomma, che cosa raccontarci questo sabato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Siamo qui proprio con una testa, io in particolare, tutta congestionata di notizie, di fatti, di opinioni. Vorrei sentire soprattutto le vostre, come sempre, il sabato, sulle notizie della settimana, che per quanto riguarda il nostro paese, ovviamente riguardano soprattutto, sono relative a certi temi, no? Vi ricordo da subito il numero verde per chiamare, per esprimere liberamente le vostre opinioni sui fatti della settimana, 800 24 00 24. Poi sapete che è molto sincopata questa trasmissione, arriveremo più o meno fino alle 15 con tutti i vostri interventi, con l'opinionista estemporaneo che presenterò tra pochissimo, con un collegamento da un altro pianeta, che è cosa immancabile, questo è l'unico programma al mondo, diciamo, con questa caratteristica, con questo collegamento diretto. Ma vi voglio dire dall'inizio una cosa che, diciamo, è anche la notizia un po' principale di questa settimana, il rito di quello che ci conferma ogni settimana ed è il perché non ci sono effettivamente più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Ecco, questa cosa, sapete che in Italia per fare una legge, un provvedimento, anche per incaricare un governo, ci sono tempi proprio da Matusalemme, no? Invece che cosa è successo? Per la prima volta nella Repubblica, nella storia della Repubblica Italiana, c'è stata una fiducia record. 5 giorni dall'incarico alla fiducia sono passati, praticamente il più veloce, questo governo Monti, a nascere nella storia della Repubblica Italiana. Ecco, questo ci conferma che effettivamente i tempi, almeno su certe cose, cambiano. Ma senza badare ad altre questioni, vorrei ricordarvi, insomma, qualche notizia di questi giorni, ma penso che sia per tutti quella centrale del nuovo governo che l'Italia ha, delle reazioni che sono state in Europa, di polemiche varie. Ma prima di tutto, signore e signori, vi voglio svelare chi è l'opinionista estemporaneo di oggi. Mario Sechi. Hola. Mario, siamo di buon umore, ti sento di buon umore. Sì. Questo mi fa già piacere. Una giornata a Roma. Tu in genere sei abbastanza di buon umore, no? Mi sembra di vederti sempre abbastanza di buon umore. Sono un ottimista di natura. Energetico anche. Mario Sechi è, tra l'altro, reggendo sulle sue spalle un intero quotidiano, il Tempo, deve anche cercare di essere di buon umore. Mario, io voglio subito iniziare con la domanda delle 100 pistole con te. Ah. Sei pronto? Sentiamo. Tu ti intendi di calcio? Abbastanza. Ti piace Maradona? Mazza, Dieghito è un grande. Ecco. Il pibe d'oro. È il più grande di tutti? Io penso di sì. Ecco. Quindi Monti, evidentemente... Come si diceva, Maradona è meglio Pelé, no? È meglio Pelé, infatti. Pelé una volta era il calciatore per antonomasia, il migliore del mondo, della storia del calcio. Ecco, invece Maradona poi dopo... Quindi se il presidente del Consiglio uscente ha soprannominato Monti Maradona, vuol dire che siamo in buone mani, secondo te? Vuol dire che l'altro era Pelé. Ecco. ma alla fine, cioè, che però è meglio Maradona, allora? Cioè, meglio Maradona, io, io sto per Maradona, no, adesso. Scherzi a parte, metafore calcistiche a parte. Monti è quindi uguale buone mani? Ma certamente è un uomo capace. Ovviamente non l'abbiamo mai visto alla prova del governo. Certo, quindi dobbiamo capire se è capace di governare, che è un'altra cosa. L'esordio è ottimo, devo dire. Io sono favorevolmente impressionato. Spero che il Parlamento sia all'altezza della missione che Monti si è dato. Bella questa cosa, cioè non dici Monti sia all'altezza di governare, ma che il Parlamento sia all'altezza, perché anche Michele in questo caso è il Parlamento che deve essere all'altezza. Cioè, i partiti hanno fatto una scelta: non andare alle elezioni anticipate e dar vita a un esecutivo tecnico che in realtà è un governo del presidente Napolitano. Sì. Adesso il Parlamento deve essere all'altezza di supportare l'azione di questo governo, secondo me. Però possiamo dire, no, a tutti quelli che polemizzano a torto, a ragione, che è un governo tecnico, che quindi non è stato legittimato, non ci sono state le elezioni, il governo è tutto vero. Però è vero anche che c'è stata la fiducia, enorme, sia da parte del Senato prima e poi ieri anche con la Camera. Quindi è legittimato dal Parlamento questo governo tecnico? Assolutamente sì, è stato fatto un passaggio fondamentale. 556 voti di fiducia, ovviamente sono un record che non si è mai visto nella storia della Repubblica. Capolavoro di Napolitano, bisogna dirlo, che ha lavorato con una maestria da profondo conoscitore del sistema politico. E ora viene la parte più difficile in realtà, cioè quella di cominciare a mettere in cantiere i provvedimenti. L'altra cosa interessante è che la polemica, o meglio il dibattito, usiamo una parola secondo me più consona, sulla legittimazione o meno di questo governo a stare in sella. Allora, non è che non ha un fondamento, parliamoci chiaro, è evidente che la politica ha fatto un passo indietro, ma bisogna chiedersi, è stata forzata a farlo o l'ha fatto volontariamente? La risposta dalla tu, Mario. L'ha fatto volontariamente, perché i partiti si sono resi conto che in quella situazione pre-Monti era impossibile completare un'agenda di riforme, anzi completare, avviare un'agenda di riforme che per il Paese è necessaria. Quindi alzate le mani, ci arrendiamo un attimo, facciamo un passo indietro noi politici, chiamiamo un governo di tecnici, gli diamo un appoggio che non deve essere solo formale e vediamo che succede. È stata la politica ad arrendersi, cioè la polemica sulla tecnocrazia funziona fino a un certo punto, fino al punto in cui si vede che la politica non ha reagito per mancanza di visione, di coesione e di coraggio. Però Mario Secchi, allora, dopo tutta questa argomentazione assolutamente condivisibile che hai fatto, io ti pongo un rebus, dopo la domanda che ci ti pongo un rebus. Allora, come fa, così in una forma di equilibrismo diciamo molto complesso, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi ha... Da una parte sostenere il governo, dire siamo in buone mani, questo è Maradona, certo Maradona vinceva anche da solo, dice, però sostiene il governo, contemporaneamente grida alla sospensione della democrazia. Cioè, come mettiamo insieme queste due cose? Io ancora non sono riuscita a incollarle nella mia mente oggi. Secondo te com'è possibile? Allora, è il principio del partito di lotta e di governo. Come questo mi ricorda la Lega, sì, che si dice esatto, di lotta di governo. Non solo la Lega, anche il PDL tempo, adesso. Anche il PDS, come vi ricordate, no? Ci sono vari trascorsi storici su questo. Ma la cosa interessante è questa, che si è dato a Monti un incarico affinché faccia delle riforme che certo non saranno comode, scontenterà un po' tutti, no? Teniamoci chiaro, su questo bisogna essere sinceri. Dall'altro lato si dice, ma noi vedremo punto per punto il programma. Ma qui c'è una palese contraddizione, non si può dar vita a un governo, addirittura appoggiarlo in forma così plateale, no? Eccetera, e nello stesso tempo pensare di fare poi la politica movimentista. Allora, quindi al netto, secondo me, poi si può opinare ampiamente su questo, ma al netto delle posizioni tattiche e quindi di rivendicazione di un'identità da parte dei partiti, di un certo tipo di programma e così via, vince un'altra cosa che si chiama responsabilità. Perché dico questo? Perché io voglio vedere come lo si giustifica di fronte al cittadino comune che paga le tasse, il fatto che tu chiami Monti a presiedere un governo d'emergenza e poi dopo 4 mesi, chiunque lo faccia, intendiamoci, lo inviti ad accomodarsi, grazie, ha finito. Perché non è così, evidentemente. E non può essere così. Perché basta vedere l'agenda di Bruxelles, sottoscritta da Berlusconi per conto dell'Italia con l'Unione Europea, sottolineo per conto dell'Italia, per rendersi conto che non bastano 4 mesi per superare le... Quindi bisogna arrivare al 2013, alla legislatura, fine legislatura. Bravissima. Ecco. Numero giusto, 2013. Ma quindi gli faranno la guerra a Berlusconi, che dice sospesa la democrazia, gli farà un po' di guerra o lasceranno... Perché... Guerricciola. Guerricciola tattica, che in politica ci sta e fa pure bene a Monti, che non dell'altro lato, ecco, Monti non deve illudersi di avere le chiavi. Carta bianca, insomma, non può avere carta bianca. No. Sì, ma io credo che lui l'abbia capito, mi sta sorprendendo anche per capacità di relazione, ho visto, interessante. Bene, allora questo è il giudizio di Mario Seghi, direttore del Tempo. Mentre vado a vedere, intanto ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori il numero verde: vi piace Mario Monti, vi piace il suo governo, le polemiche che avete sentito. Poi chiederò anche a Mario Seghi il conflitto di interesse che si, no, si sospetta a proposito di Corrado Passera, ex banchiere almeno fino a qualche giorno fa, e poi si dice cioè qualche uomo anche alla fine di Gianni Letta vicino, qualche donna vicino a Berlusconi, eccetera eccetera. Poi sentiremo un po' cosa ne pensa Mario Seghi, ma anche a voi ascoltatrici e ascoltatori piace questo governo? Così è una prima impressione, cioè vi affidate? Ho visto da alcuni sondaggi, per esempio Demopolis, mi sembra che era altissima la percentuale di italiani che in questo momento ha fiducia, forse per disperazione, forse per convinzione. Cercheremo di capirlo poi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi soprattutto. Però volevo dare anche uno sguardo veloce alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, a proposito dell'indice di gradimento, diciamo, relativo a Mario Monti e al suo governo. Margherita scrive: non è che i soggetti si conoscano ancora così bene, giustamente, cioè. Certo è che l'aura di decoro e serietà è confortante dopo il circo Barnum che ci siamo dovuti subire. Robert dice: saranno i nostri curatori fallimentari o l'impressione che faranno gli interessi delle banche e della chiesa, non certo i nostri, con questa diffidenza e questi timori. Elis scrive: speriamo bene, così molto laconico. Corrado dice: finalmente un bel governo di destra serio, peccato che io sono di sinistra. E poi Nicola: ho paura di sangue e lacrime. E Santina scrive: fisicamente non mi sembra vero di vedere delle signore dignitose, le ministre, e competentissime, e non la sfilata di rifatte. Andrea: tutto ottimo a partire dalla sobrietà e dalla serietà. Danilo scrive: una squadra messa insieme per impressionare positivamente i mercati internazionali. Io, che al massimo frequento il mercato di Vimercate, che è vicino a Milano, non so davvero che dire. Enrica: ma certamente nessuno la bacchetta magica, e non è Gesù che ha moltiplicato pani e pesci, per cui taglieranno e ancora taglieranno. Vedesi prime dichiarazioni della nuova ministra esperta di previdenza, quindi la Fornero. E Davide dice: riforme e rigore per il bene di tutti. Insomma, un po' di, diciamo, opinioni sparse, chi diffidente, chi è diciamo ottimista, e chi invece è piuttosto preoccupato. 800 24 00 24. Tra pochissimo c'è Gino da Carbonia. Mi pare che sia in Sardegna, o sbaglio? Me lo ricordo bene. Bene, Gino, anche tu, Mario, sai che giustamente sei sardo, no? Sì, di Cabras. Carbonia è lontano? Da dove? No, non particolarmente. Forse è rimasto l'unico luogo dove si estrae ancora, ci sono le miniere? Mi ricordo bene, non mi ricordo. Beh, insomma, non l'unico luogo. Vi comunico che il carbone è ancora la prima fonte di energia nel mondo. È vero, è vero. In realtà. È vero, e se ne accorgono. Sì, e sentivo anche delle cose terribili ieri che riguardavano l'India, di una religiosa che da anni lottava per evitare lo sfruttamento di una parte poverissima del territorio dell'India, cercando anche appunto di salvaguardare la qualità di vita, gli interessi degli abitanti di quella zona. Insomma, l'hanno fatta fuori 2 giorni fa a colpi di macete in 50 contro di lei. C'è, dicevamo, Gino da Carbonia. Gino? Sì, pronto. Come si sta a Carbonia? Si sta, che ci sono molte nuvole, piove e sta diventando improvvisamente freddo. Non ci sono più le mezze stagioni, ci sarà mica anche la nebbia. Il fatto che appunto questo, che tutto sommato la vostra trasmissione, che sembra irridere i luoghi comuni, però di fatto sta succedendo così. Credo che stiamo pagando l'inquinamento che da tutte le parti del mondo ormai sta sollevando. Dimmi tutto, Gino. Allora, no, il mio commento riguardava un commento a sua volta dell'ex direttore, se non sbaglio, del Fatto Quotidiano Padellaro, sì. Forse ancora direttore. Non mi sono aggiornata male. Cioè che aveva commentato l'uscita di scena di Berlusconi come la fine di un incubo. Mi è sembrato davvero eccessivo, devo dire. Forse avrei riservato un commento di questo genere alla cattura di un killer, di un serial killer fino allora che non si riusciva a catturare, oppure, che ne so, alla caduta di un regime tipo il regime comunista, non mi ricordo che quando questo è successo qualcuno soprattutto tra i giornalisti di sinistra abbia titolato una piccola presidenza. Ecco, da questa è la mia osservazione. Gino, invece per te che cosa è stata la fine del governo Berlusconi e la nascita di questo nuovo esecutivo Monti? Mi è sembrato davvero quello che dappertutto ormai si dice, che è stata un po' la resa della politica di fronte a necessità che di riforme che la politica non è stata in grado di fare. Ma ti piace? Ti piace per ora? Così, prima impressione? Il professor Monti, assolutamente sì. Mi piace, senz'altro. Molto bene. Gino, salutaci Carboni e anche le sue nuvole, grazie. Così diciamo estemporanee. Grazie. Speriamo. Grazie. Mario, che dice a proposito di questa dichiarazione, questo commento della fine di un incubo? Che Gino ha grande buonsenso, come gran parte degli italiani, devo dire. Però posso dirti una cosa, sì. Mario? Allora, diciamo, qualcuno sentivo in questi giorni, ho letto, eccetera, che attribuisce la fine o dell'incubo o del governo Berlusconi, insomma, a seconda dei punti di vista, addirittura alla discesa in campo, se così molto breve e piuttosto plateale, di Veronica Lario. Da lì, quando aveva denunciato, insomma, tutto il circo di ballerine, oltre ai nani, come dice qualcuno, intorno a Berlusconi, le candidature di queste ragazze che erano passate, diciamo, dalle sue feste e così, e da lì per qualcuno è iniziato il declino, e quindi alcuni detrattori di Veronica Lario la considerano la rovina dell'Italia di Berlusconi, altri una eroina nazionale. Possiamo dire che un pochino, forse il martello sui piedi, il presidente, ex presidente Berlusconi se l'è dato, ma una cosa che ti chiedo è, nei suoi videomessaggi, anche nei giorni scorsi, quando poi ha annunciato che si sarebbe anzi impegnato doppiamente ora che è fuori dal governo, non poteva trovare, diciamo, 7 secondi per dire effettivamente magari avrei potuto fare, ma certe cose sarebbero state potute fare meglio su questa cosa, riconosco che secondo te è vero, qualcuno dice non sarebbe stato più Berlusconi se avesse riconosciuto, ma non sarebbe stato anche da un punto di vista comunicativo non avrebbe avuto un effetto di grande impatto anche su chi non ha mai amato Berlusconi, una cosa del genere? Avrebbe colpito, avrebbe spiazzato, secondo me. Perché non l'ha fatto? Perché avrebbe spiazzato Berlusconi. Berlusconi stesso, dice, quindi non sarebbe stato Berlusconi, giustamente. Mi sembra... chi segue l'avventura politica di Berlusconi fin dall'inizio, io sono tra questi perché ho cominciato a fare giornalista in quegli anni, un po' prima, ma insomma in quegli anni, sa che Berlusconi non ha quel tipo di indole. Berlusconi è un attaccante, poi con delle timidezze anche incredibili, ma che l'hanno portato a commettere degli errori piuttosto importanti in politica. Fammi 2 esempi. Beh, le riforme liberali. Che non ha fatto. Berlusconi aveva uno straordinario manifesto liberale nel 1994, fatto da veri e propri cervelli che lavoravano con lui, il professor Giuliano Urbani, Antonio Martino, che è editorialista del mio giornale, tanti altri professori, ricorda Lucio Colletti, Saverio Bertone, era tutta gente di grandissimo livello che contribuì a formare la piattaforma culturale politica dell'allora Forza Italia. Peccato che poi, per mille motivi, non solo per colpa sua ovviamente, va detto per onestà intellettuale, ma quelle cose non si sono realizzate. Ha fatto molte cose rivoluzionarie Berlusconi nel sistema politico. Ecco, ma il secondo errore, a parte le liberalizzazioni che non ha portato a te, che non ha concretizzato, insomma, che non ha realizzato, l'altro errore quale potrebbe essere? Cioè, per esempio, ce n'è uno fondamentale. L'errore è stato nel non aver applicato il principio dello spoil system e delle relazioni istituzionali in maniera seria. Cioè la classe dirigente alta, quella che poi di fatto governa i ministeri, le istituzioni e così via, è rimasta sempre la stessa, fondamentalmente. E quindi Berlusconi si è trovato di fronte, per assenza di coraggio nel voler cambiare quel tipo di impostazione, una classe dirigente conservatrice che gli ha fatto una battaglia contro. E invece un sistema di relazioni intelligente, poi ce n'è un altro di errore legato a questo. Non c'è due senza tre. Sistema, sì. Esatto, e lo diciamo magari adesso. Ma un sistema di relazioni intelligente presuppone che tu abbia un'altissima fascia di civil servants che lavora con te e condivide il tuo programma. E invece lui aveva una classe di civil servants che non condivideva affatto il suo programma, perché era un programma rivoluzionario che avrebbe cambiato lo status quo, di cui le difficoltà ad applicarlo. L'altra cosa fondamentale che non ha fatto è dotarsi di un sistema di relazioni diplomatiche internazionali che andasse oltre la sua persona. Berlusconi è stato un facitore di relazioni personali molto forti, fino a un certo momento. Tutte positive? Ma direi di sì, lui ha avuto un grande, è stato il miglior alleato dell'America, parliamoci chiaro, è stato un elemento di congiunzione con la Libia quando tutti i paesi occidentali facevano affari con la Libia e ha tutelato gli interessi italiani che erano sostanzialmente quelli del gas, del petrolio, dell'energia e delle infrastrutture. Poi si può discutere o meno le forme con cui l'ha fatto. Putin? Chi piace, chi no. Putin pure, Putin aveva e ha per noi e per tutto l'Occidente un interesse enorme che è strategico-militare da una parte, la Russia l'ha sempre tenuta in considerazione perché è passaggio e crocevia di molte relazioni, non ultima quella con l'Iran sul quale come sapete ci sono un po' di tensioni internazionali diciamo così, e l'altro aspetto, l'area medio orientale con cui l'Italia parlava, voglio dire la missione in Libano fatta ai tempi dell'Ulivo, no? Ai tempi dell'Unione veramente, con ministro degli esteri D'Alema, è frutto comunque di una certa continuità delle relazioni internazionali fatta sempre dal governo Berlusconi. Anche. Quindi, voglio dire, lui è stato bravo lì, poi però cosa non ha fatto? Non è entrato nelle istituzioni che poi ti servono per cambiare, che ne so, in maniera diversa i trattati europei. Lì senti Mario, ti dico solo, ecco, poi abbiamo questo collegamento, mi dicono tra poco con un altro pianeta, sì. E anche con Vittoria da Milano, all'800 24 00 24, il numero verde per voi ascoltatrici e ascoltatori. Ma per esempio qualcuno che si è allontanato da lui, tipo Gabriele Carlucci e altri, no, in questi giorni, sì, mentre la barca stava affondando, sì, ha detto forse si è troppo attorniato di yes men, quindi qualcuno con poco cervello ma pronto subito diciamo alla sudditanza, un po' servile eccetera, e di nani e ballerine, forse anche questo. Beh, poi sia stato un solo, dimmi sì o no, questo errore, sì o no? Ma che nel personale politico, soprattutto di questa legislatura, ci sia una quota di parlamentari anche consistente che non è all'altezza del proprio compito, io lo scrivo da sempre. Benissimo, allora mi dicono… Ed è sì, frutto della selezione della classe dirigente che è sbagliata. Collegamento, sì, con Marte. Riflessioni da Marte. Anche da quassù, da Marte, anche attraverso qualche incipienza di nebbia, come diceva prima il nostro ascoltatore da Carbonia, quanto febbrile movimento si è visto col telescopio puntato sulla penisola italica. Del resto, morto un governo, se ne fa un altro, e mai così repentinamente. Scilipoti, tuttavia rimasto fedele per una volta al caro istinto, porta visibilmente alla Camera il lutto al braccio. Un po' mortifera anche la reazione del Cavaliere, che parrebbe aver minacciato di staccare a tempo debito la spina alla nuova squadra, anche se capeggiata, dice, da Maradona, ma poi conferma che è solo l'ennesima invenzione giornalistica. La spina, invece, la Lega la infilerebbe volentieri da qualche parte al nuovo esecutivo, anche perché questa storia del Ministero della Coesione Territoriale è per la Lega un tema alquanto spinoso, per l'appunto, anche se Maroni elabora una rima baciata e dichiara: stimo Monti ma non faremo sconti. Intanto il PD Renzi promette che il Big Bang procederà più rottamante di prima, e il collega Enrico Letta manda pizzini a Mario scrivendo: se mi vuoi, eccomi a te. Un tale turbinio, insomma, torni al novello Presidente del Consiglio, che a un certo punto gli scivola via la maschera da Sfinge d'Egitto e presenta finalmente variegate e quasi umane espressioni. E mentre avverte chi ha dato, scordiamoci il passato, ma chi ha dato di meno darà di più, viene da chiedersi: se al presidente americano Obama, in visita ufficiale in questi giorni in Australia, nella città di Darwin, gli hanno consegnato in omaggio un'assicurazione contro gli attacchi dei coccodrilli, visto che la copertura prevista dalla polizza americana non contempla un simile infortunio, quale polizza nell'arena del Parlamento italico si potrebbe suggerire a Monti? Il coccodrillo e il coccodrillo. Il coccodrillo come va? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? E rieccoci coi piedi per terra. Subito mi avvio alla telefonata di Vittoria da Milano. Vittoria, buongiorno, noi ci siamo già sentiti a suo tempo. A suo tempo. Io volevo esprimere la mia opinione in merito alla fine di Berlusconi. La sì, fine di Berlusconi è stata che non poteva più portare avanti il gioco delle tre carte, nelle quali era abilissimo, è stato abilissimo per anni. I nostri politici, che io chiamerei politicanti più che politici, non hanno avuto né lo spirito né il coraggio di prendere una posizione decisa di cambiare le cose, prima di tutto perché hanno pensato che fosse molto più comodo passare la patata bollente a qualcun altro, cioè al governo Monti. Così loro, poverini, non fanno niente, se ne sono lavati le mani come Ponzio Pilato, per poi tornare e pensare di fare quello, di portare avanti la stessa politica, la stessa smanfrina che hanno portato avanti fino adesso e che ci ha portato nello stato in cui siamo. Questa è la mia opinione. Vittoria, dimmi solo, ti piace questo governo? Ti piace il fatto che ci siano, per esempio, tre ministri in tre ministeri di casteri, sì, strategici, no? Ritengo che le persone che ne fanno parte sono tutte persone qualificate. Ma le tre donne? Le tre donne mi piacciono e finalmente assistiamo a dei discorsi, a delle presentazioni che non siano una cosa da teatro, insomma. Grazie Vittoria, prego. Grazie. Bianca da Udine. Ciao Roberta. Ciao Bianca. Ciao cara. Senti, Udine, Udine, la mia stima in assoluto nei tuoi confronti, sei deliziosa quando parli in qualsiasi cosa, in qualsiasi argomento tratti, hai tenerezza e stangata, sei molto brava e molto intelligente. Bianca, se mi dici così, io non mi sento di contraddirti, Bianca, non voglio assolutamente, non mi permetto. Grazie Bianca. Comunque. Ecco, dimmi tutto, la tua riflessione. Tu hai chiesto qual era il mio parere o il parere dei cittadini italiani nei confronti di questo governo. Allora, innanzitutto io ho e finalmente sono orgogliosa di avere un governo all'altezza. Finalmente, grazie al professor Monti e al suo staff, noi potremo guardare in faccia tutti i governanti del mondo. Non ci faranno più le risatine della Merkel, di Sarkozy, eccetera, eccetera. Finalmente i cittadini italiani potranno dire: noi cittadini italiani siamo come questi qui, non come quelli di prima, perché io per poter vivere devo alzarmi al mattino, rispettare determinate cose, la sera devo andare a dormire, se la sera vado a mangiarmi una pizza devo stare attenta che ho mangiato la pizza, eccetera eccetera, non faccio le notti di bagordi e al giorno dopo dormo sui banchi del Parlamento. Se noi italiani avessimo fatto come ha fatto il precedente governo, l'Italia sarebbe altro che in bancarotta. Viva il governo Monti, le donne che ha eletto come ministri e tutti gli altri ministri. Questo è il mio parere. Bianca, un manifesto quasi di beatificazione di Monti. Ti piace questo governo? Mi piace molto, mi piace la serietà e ritengo che gli italiani siano proprio così, hai capito? Ognuno al suo livello, perché chiaramente io faccio promozioni nei supermercati, è chiaro che io faccio un lavoro che è un lavoro semplice, però se io fossi una lavativa, anch'io farei un lavoro del cavolo e ruberei agli altri, non so se rendo l'idea, ma se io mi impegno nel mio piccolo, anch'io faccio del bene al resto dei cittadini. Certo, bisogna iniziare da se stessi. Bianca, dimmi una cosa, il fatto che comunque Monti abbia detto ci saranno comunque misure sgradevoli, poco gradite, ma poi il ritorno dell'ICI, poi si vedrà anche con le pensioni, tutto questo non ti spaventa, dici? No. Spaventa per nulla. E vuoi che te ne dica un'altra? Non solo non mi spaventa, ma ritengo che una persona corretta sia capace di tenere nell'ago della bilancia in considerazione il lavoro di una persona semplice che riesce a produrre quel quid, come alla stessa stregua chi guadagna di più, ed è giusto che paghi di più. In un momento di difficoltà è giusto che ognuno paghi per quello che è giusto in proporzione che possa pagare. È giusto o no? In un attimo, io dico solo una cosa, in un momento di guerra, mettiamo, certo non è la guerra, no, però in questo attimo potrebbe anche esserlo, hai capito? Bianca, economicamente. Bianca, è chiarissimo il tuo parere, trasparente, lampante, eclatante. Mario Secchi, che dici di questo commento di Bianca? Ma traspare dire l'entusiasmo per il governo Monti, che io ho sostenuto tra l'altro, sì. Ma diciamo che io ho una visione un po' più problematica della faccenda. sia sul come si è arrivati alla costituzione di questo governo, al VAR e così via, su quello che ci attende. Senti, a proposito di quello che ci attende, Mario, scusa se ti interrompo, vedevo che i principali quotidiani generalisti, no? Corriere, Repubblica, Stampa, allora il Corriere, primo titolo d'apertura, ora sacrifici per chi ha dato di meno. La Stampa, vediamo se la recupero, eccola qua, dice pagherà chi ha dato di meno. Giusto, Repubblica tra i tre si distingue, fiducia, record a Monti, ce la faremo. Mi pare che è un sottotitolo anche del tuo titolo di apertura, sottolineasse questo aspetto, insomma, sì, ma anche che chi ha dato di meno dovrà dare di più. Secondo te, quindi, è una dichiarazione lampante anche di Monti sul fatto che riuscirà quindi a tenere in equilibrio quella cosa difficilissima del connubio tra rigore ed equità sociale anche? Allora, intanto, chi ha dato di meno? Quella è la domanda che volevo porre. No? Chi ha dato di meno? Allora, chi ha dato di meno? Ha dato di meno sicuramente la categoria dei cosiddetti rentier, cioè di quelli che hanno rendite patrimoniali consistenti. Ha dato di meno chi ha avuto la possibilità, per esempio, di delocalizzare legalmente, ma l'ha fatto, parte dei propri patrimoni all'estero. Ha dato di meno l'evasore totale o parziale. Quindi ci sarà lotta all'evasione fiscale, la patrimoniale è già esclusa perché a PDL non piace, no? Mi sembra che sia capitolo chiuso. Beh, ci saranno forme di tassazione patrimoniale comunque. Non la patrimoniale classica, ma non una patrimoniale classica, ma sai, poi i metodi per fare le cose e per chiamarle anche con un altro nome. Ci sono. Nella politica legislativa esistono. Io, ahimè, faccio questo mestiere ormai da tantissimi anni, sono più di 20 anni, nonostante sia ancora giovane. Un po' giovane, perché a 44 anni non si è più giovane. Beh, insomma, ma quando è che sei giovane? Sì? Si è giovani dentro, mettiamola così. ne ho viste un po' di tutti i colori, quindi si possono benissimo travestire o vestire dei provvedimenti che di fatto sono delle patrimoniali. Ecco, però al di là di questo, secondo te riuscirà quindi in questa impresa di essere anche equo, diciamo, è vero che darà di più chi ha dato di meno e si faranno deve cambiare il fisco. Quindi riforma fiscale. La questione fiscale è la cosa più grande che c'è. La riforma fiscale da un lato è quella che tecnicamente viene chiamata spending review, cioè revisione della qualità della spesa, dall'altro sono questi due pilastri sul quale si deve muovere qualsiasi governo, attenzione, di destra, di sinistra, di centro. Intanto io a margine, Mario, sei ascoltatrici, ascoltatori, ogni tanto butto l'occhio anche sulle agenzie. Egitto, scontri a Piazza Tahrir, pietre lacrimogene, quindi queste, diciamo, primavere arabe che in realtà hanno degli strascichi molto lunghi prima che si possa veramente insediare una vera democrazia. Ci saranno lacrime e sangue, ma per altri aspetti anche lì, e in più anche la questione delle donne in molti paesi può degenerare. Dove erano, diciamo così, almeno parzialmente laici, le cose non sono garantite che vadano nella direzione giusta. Comunque assistiamo per il momento, a proposito di questo, primo titolo del Corriere.it: arrestato Saif al-Islam, figlio di Gheddafi, in viaggio verso il nord della Libia. E poi ci sospendiamo, non dalla democrazia, Mario Secchi, ma brevemente dal nocciolo di questa puntata e di questa settimana, perché c'è la notizia seconda del Corriere. ENAV, che è l'ente nazionale per l'assistenza al volo, arresti per manager e politici. L'amministratore delegato pugliesi finisce ai domiciliari. Una cosa grossa, grave questa, no? Nell'inchiesta su Finmeccanica. Che succede? Parecchio grave. Ma tanto vabbè, stiamo nel campo delle ipotesi di reato. Sì. Però c'è l'inchiesta, ovviamente bisogna darne conto, come suol dirsi, in maniera ampia. Ma lì c'è un giro presunto di appalti, mazzette, compagnia cantante, in cui sono coinvolti appunto manager dell'ENAV e così via. C'è anche coinvolto il segretario amministrativo dell'UDC per una presunta mazzetta a 200.000 euro. E Finmeccanica? Finmeccanica pare essere lo snodo, pare, io sono sempre molto cauto, perché di inchieste iniziate ne ho viste tante e poi come sono finite pure. Quindi Finmeccanica pare fosse lo snodo di alcuni fondi neri, eccetera. Come la vogliamo definire Finmeccanica? Il secondo grande gruppo, come per chi? Una grande azienda italiana. Ecco, tanti una grande azienda italiana. Partecipata a livello statale, insomma, nel settore aerospaziale. Sì, una grande azienda italiana nel settore aerospaziale, un fiore all'occhiello del nostro sistema industriale, è un campione nazionale, E speriamo, insomma, è che le cose... È un'azienda sulla quale si possono fare, si debbono fare tutte le indagini possibili, ovviamente. Certo. Però io inviterei anche a riflettere sul fatto che i campioni nazionali in qualche maniera poi devono essere tutelati da speculazioni che poco hanno a che fare con la giustizia. Sì. Bisogna stare attenti, perché questa è un'azienda che fa gola a tantissimi gruppi esteri, allora, non bisogna indebolirla. Mentre ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che se avessero mai perso accidentalmente parte di questa puntata, volessero risentirla tutta, oppure va comunque di risentirla, possono andare poi sul sito da lunedì più o meno di Radio 24, oppure sulla stessa pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, ma c'è all'800 24 00 24 Nino da Foggia. Nino, che stai facendo? Buongiorno Bianca. Buongiorno. No, come Bianca? Bianca era quella più... Io sono Roberta. Giordano. Scusami, buongiorno sì. Roberta. Volevi parlare con Bianca, forse? C'è stato un incrocio? No. Sì. Volevo esprimere la mia simpatia verso il governo Monti. Sì. Anche perché, insomma, la prima mossa è stata quella di acquistare fiducia a livello europeo. Mm. Infatti, nel prossimo vertice conteremo qualcosa, quindi credo che questo significhi qualcosa. E anche un plauso per i ministri, per i ministeri delle donne, così importanti, è la prima volta nella storia. Sì, sicuramente alla giustizia è la primissima volta. All'interno c'era stata Rosa Russo Iervolino qualche anno fa, però sì, per la giustizia. E poi al welfare, al lavoro, anche questo è importante. E volevo dire anche qualcosa riguardo a Passera, per quanto riguarda il conflitto di interessi. Mm. Io sono un dirigente di Poste, comunque Passera è stato amministratore delegato ed è una persona competente. Mm. Cioè, ha trasformato, è stato uno dei primi a trasformare l'ente Poste insomma in una società per azioni, a portare degli attivi in una società che era praticamente un carrozzone per lo Stato. Mm. Ha portato dei servizi nuovi, quindi ha dimostrato di essere una persona competente. Competente, Nino. Ti ringrazio molto, Nino, e buon lavoro allora. Mario Secchi, a proposito di questo sollevato, insomma, diffidenza sul possibile conflitto di interessi di Passera, che dicono sì, è competente, però potrebbe fare delle scelte che siano in qualche modo contigue, vicine, che salvaguardino interessi di persone, di aziende, eccetera, con cui lui ha lavorato fino a ieri. Secondo te? Secondo me è una polemica assolutamente inutile e strumentale. Mm. Provo a spiegare perché. Sì. Tutti i regimi democratici, tutte le democrazie occidentali vivono nel conflitto di interessi, perché il conflitto di interessi deve emergere, i legittimi interessi devono emergere. Se non emergessero, noi favoriremmo di fatto la creazione di un potere occulto. Faccio il nome e il cognome, Corrado Passera. Mm. È un ottimo manager che ha fatto bene ovunque abbia lavorato. Sì. Ha lavorato con tutti, ha lavorato con De Benedetti, ha lavorato con Berlusconi, è stato manager alle Poste, è il super manager di Banca Intesa. Mm. E ciò che conta davvero quindi è la competenza, e lui competente lo è. Ma non sarebbe peggio che Passera, dalla posizione di presidente di cuore di Banca Intesa, facesse il kingmaker, per esempio, di un altro, e quindi, diciamo, per usare una metafora, muovesse i fili di qualche altro, piuttosto che impegnarsi in prima persona nel servizio per il paese. Cioè, secondo te in questo modo è esposto e si fa delle cose... È esposto, è palese, mm. è giudicabile dalla pubblica opinione, mm. dai giornali, da tutta l'informazione e dall'elettore, quando si voterà, se si voterà e se si candiderà. Quindi secondo me è una polemica assolutamente strumentale. Benissimo. Aggiungo solo una cosa, perché bisogna essere chiari su questo, che è sorprendente che questa cosa venga tirata fuori da ambienti, diciamo, del centrodestra, perché allora che cosa si dovrebbe dire del conflitto di interessi di Berlusconi? Che vabbè, io non ho mai una storia lunghissima, cioè, voglio dire. Vabbè. Perché non c'era il conflitto di interessi di Berlusconi? Certo che c'era, ma anche quello era palese, sottoposto addirittura al giudizio degli elettori. Ma qui ci sono, diciamo, pareri discordanti. Bruno da Bergamo, che ci racconti, Bruno? Buongiorno, volevo intervenire sulla presupposta non democraticità del governo Monti per il fatto di non essere stato votato dagli elettori. Mm. Dunque, a quel che risulta a me, gli elettori non votano un governo, ma un Parlamento. Certo. Ed è il Parlamento che sceglie il governo. Sì. Mi visto che il governo Monti è stato votato da un Parlamento liberamente scelto dagli elettori, rispetta tutti i crismi della democraticità, della costituzionalità di qualsiasi altro governo, e quindi questa è una polemica infondata. Molto bene. Se qualcuno più titolato di me può darmi un suo parere, ne sarei grato. Grazie Bruno, poi sentiamo Mario Secchi, ma penso che il tuo ragionamento non faccia una piega, certamente è un governo d'emergenza, anche se l'altra volta avevo fatto tutto l'elenco di un sacco di espressioni che erano state usate per questo governo incipiente, da governissimo, governo delle larghe intese, governo d'emergenza nazionale, chi più ne ha più ne mette, avevo elencato almeno 6-7 sinonimi, poi l'ha scelto alla fine Mario Monti proprio ieri o l'altro ieri, ha detto è un governo di impegno nazionale, ecco, quindi teniamoci questa espressione, quindi in un momento d'emergenza, ma di impegno nazionale, effettivamente poi con la fiducia anche del Parlamento. C'è Libero della provincia di Frosinone? Sei libero, libero? Sì. Sì, pronto. Eccoci. Pronto. Pronto? Sì, ci sono. Niente, io non volevo intervenire su il governo, se è legittimo o meno, perché no, qua ormai con le tribune politiche che ci sentiamo, ormai c'è e ci deve essere. L'unica cosa che volevo chiedere a Mario, sì? Mi permetto di chiamarlo Mario. Ma Mario Monti? No, sì. A Mario sì, sì, sì. Sì. Che se mi dà una risposta, no? Sugli interventi ormai inevitabili, perché o li faceva Berlusconi o li fa Monti, ormai ce li dobbiamo prendere e siamo tutti coscienti. Per quanto riguarda, io vorrei intervenire, per quanto riguarda, sicuramente si andrà a mettere mano alla riforma delle pensioni di anzianità, no? Io ho 39 anni di contributi, 57 anni, sto quasi per andare e mi si allunga di un anno la finestra, 3 mesi l'aspettativa di vita, poi mi fa paura questo discorso di non riuscire, dopo aver avuto la fortuna di lavorare da quando ero ragazzo, e stare quasi in pensione. Non è che non ci voglia andare in pensione di anzianità, è che non c'è lavoro per continuare, quindi stiamo tirando a campare per arrivare. Non è che uno su questo hai ragione, Libero. Adesso sentiamo sinteticamente Mario Secchi, perché ci avviciniamo velocemente poi alla chiusura. Grazie, Libero. E tra l'altro ti informo, prima notizia di Repubblica.it, Fini dice aboliremo vitalizi degli ex deputati, PDL a Monti, vice ministri solo tecnici. Questa roba dei vitalizi è una cosa, ovviamente, giustamente, con tutta questa polemica sui costi della politica, ha una sua presa. Mario, riesci a rispondere sinteticamente al nostro Libero? Sì. Ti chiedeva delle misure, ma sinteticamente, sì, quelle che immagini. Le pensioni d'anzianità in Europa le abbiamo solo noi. Questo è un dato di fatto sul quale bisogna riflettere. Quello che diceva Libero io lo trovo assolutamente legittimo, e le sue preoccupazioni sono quelle di tanti altri milioni di italiani. Bisogna che ci sia un intervento oculato, attento a non penalizzare troppo chi ha lavorato una vita. Io questo lo comprendo, però dall'altro lato vorrei sottolineare che un intervento è necessario. Non ci sono dubbi, va fatto, noi ci dobbiamo allineare in qualche maniera ai canoni europei, dobbiamo anche diminuire la spesa, che è di 3 punti superiore mediamente a quella del resto del vecchio continente. Si può fare tranquillamente, con l'accordo di tutti, anche delle parti sociali della stessa CGIL, e credo che si troverà una strada per farlo bene. Bene, 800240024, ma è il momento anche di decidere qual è la parola di questa settimana. Io sottoporrei a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, visto che è tanto rimbalzato da giorni, questo tecnico, il governo tecnico, tanti, insomma, avevo paura di trovare degli idraulici quasi lì al governo. Che dici, Valeria? Sì, è proprio parola rimbalzata ovunque. E allora, che cosa dico? Ma insomma, l'aggettivo tecnico ha fatto la sua prima apparizione nella lingua italiana piuttosto tardi, nel 700, del resto prima non esisteva forse una vera e quella che possiamo chiamare proprio una vera e propria tecnica. La parola all'origine viene dal greco technikos, quindi relativo all'arte, alla tecne, ma quello che è curioso è che questa parola, quando si è diffusa nella nostra lingua, ha trovato molte difficoltà, in particolare nell'Ottocento, perché i puristi in ambito linguistico la rifiutavano e la condannavano. pensavano. Beh, oggi, come sappiamo, invece le critiche nei confronti di quelli che vengono definiti ministri tecnici, quelli che fanno parte del governo tecnico, nel suo complesso, invece queste critiche vengono da altri fronti. E, insomma, morale, quasi quasi che ci venga quasi da rimpiangere il tempo nel quale ci si accapigliava sulla parola tecnico e non sulla sostanza. E rimaniamo con questo interrogativo dilemmatico. Grazie a Valeria Della Valle. Grazie. Grazie cara Valeria. E invece adesso vorrei chiedere a Mario Secchi. Mario, senti, brevemente, no, a proposito di quello che diceva prima l'ascoltatore, io dice, mi sto avvicinando alla pensione, ma me la allontanano sempre di più, come la carota che uno se la porta via, e dice poi vivacchio perché non si trova più lavoro. Ma mi è venuto in mente una cosa: c'era un sondaggio questa settimana tra gli americani, gli statunitensi, il 25% sarebbe disposto a lavorare sino a 80 anni. Ora dico, a parte loro che sono proprio dei Robocop, che ne so, però se è una questione di matematica, no? Anche una questione di matematica, cioè se chi man mano invecchia non viene via dai posti di lavoro, i giovani come fanno a entrare se quelli non escono? Cioè è una questione, io ancora non... Che risposta dare brevemente a questa cosa? Bisogna creare più posti di lavoro. E come si fa? Il milione di posti di lavoro famoso. Bisogna fare più impresa, bisogna fare più PIL. Non è possibile che noi abbiamo una crescita dello 0,3% per l'anno prossimo. Punto. Sei ottimista su questo? Bisogna fare più impresa. Senti, io allora in chiusura, visto che abbiamo ancora qui 45 secondi, mi pare, è vero, sì, più o meno, sì, ti chiedo questa cosa. Tu sai che i giornali inglesi, soprattutto, sono stati sempre molto severi con Berlusconi, in particolare quelli anche quelli americani. Il Newsweek dice questa settimana: Berlusconi non è solo un vecchio ciarlatano, la sua uscita di scena lascerà il segno nella psiche nazionale. Io sono preoccupata, che segno lascerà nella mia psiche, secondo te? Mario, ma non lo so, mi pare che tu ragioni benissimo. Pure io sono avrà, sangue, avrà lasciato qualche segno nella psiche di Newsweek. Io mi sento sereno. Siamo sereni proprio per questo, caro Mario Seghi. Saluto te, le ascoltatrici e ascoltatori, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.